siamo in diretta con una compagna. Ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, sappiamo insomma che oltre alle situazioni di cui abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un piccolo riassunto di ciò che è accaduto ieri a Ponte Galeria e abbiamo cercato insomma, sebbene con difficoltà, di dar qualche notizia rispetto a soprattutto i gesti di autolesionismo che si sono verificati a Brindisi. Ecco, da parte tua insomma, se ci aiuti a capire insomma l'evoluzione nelle ultime ore invece a Corso Brunelleschi. Ma allora io partirei subito dicendo che raccontando l'antefatto di quello che sta succedendo, di quello che è successo stanotte e ieri, che è la notte fra domenica e lunedì, in cui sia l'area verde che l'area blu sono andate a fuoco. L'area verde è stata danneggiata completamente e l'area blu, che è l'area adiacente, ha preso fuoco in parte, sono state bruciate solo due stanze, per cui tutti i reclusi dell'area verde sono stati portati nel cortile e hanno passato lì tutta la notte, finché in tarda nottata hanno portato dei materassi e delle coperte e li hanno spostati nella stanza della mensa dove mangiano. E invece nella blu, dato che comunque sono andate a fuoco solamente due stanze, sono riusciti a sparpagliarli nella parte restante dell'area. E questo comunque non è bastato a chi ha compiuto questo gesto per esprimere tutta la rabbia di rimanere reclusi per sei mesi in un centro e quindi hanno deciso di bruciare anche la mensa dove stavano dormendo e di conseguenza hanno passato l'intera giornata di ieri praticamente dentro nel cortile, senza niente, senza cibo, senza acqua, senza bagni, perché comunque l'aria è stata completamente distrutta ed hanno passato anche tutta questa notte fuori. Finché ieri sera hanno portato di nuovo materassi che sono stati sistemati nel cortile, quindi fuori all'aria aperta. Quindi insomma in queste ore si dorme, nella notte scorsa hanno dormito all'aperto? Sì, hanno dormito all'aperto perché non sapevano dove metterli. Ieri pomeriggio sembrava che li volessero portare via, sono stati tutti perquisiti e hanno visto diverse camionette nel centro e pensavano di essere portati via, invece molto probabilmente hanno fatto una perquisizione per cominciare le indagini, per cominciare a cercare i responsabili e credo che comunque sarà difficile, perché come prima cosa hanno messo fuori uso, prima di bruciare tutto hanno messo fuori uso le telecamere e quindi probabilmente cercavano chi ancora avesse accendini o fiammiferi o quello che insomma è servito per accendere il fuoco. Va bene, insomma, perlomeno anche loro, ma non poteva essere altrimenti, visto che in prima persona vivono questa condizione, hanno iniziato a utilizzare anche questi accorgimenti che diventano poi importanti, no? Certo, sì, sicuramente. Un'altra cosa che è successa, che mi sembra bene dire, è che sono stati minacciati anche soprattutto dagli operatori della Croce Rossa, che cercavano di minimizzare il loro gesto e cercavano di fargli notare che questi atti di ribellione sarebbero andati solo ed unicamente a svantaggio loro, perché non li avrebbero mai liberati, perché non serviva per farsi liberare e perché non andava che a peggiorare le loro condizioni di detenzione, che insomma comunque vengono fatte pressioni psicologiche continuamente su di loro per cercare di smorzare gli animi. Va bene, allora così diciamo anche che il nostro giro è più o meno completo a questo punto. Di certo è che quella vissuta, l'ultima settimana vissuta, è stata abbastanza esplosiva, un po' in tutte le strutture italiane, insomma, da Gradisca a Torino, per l'appunto a Brindisi. In una situazione movimentata, tra l'altro, anche dai trasferimenti che si stanno operando da Icara a Mineo, quindi insomma seguire un po' tutto diventa sempre più complicato, ma necessario, insomma, ecco. Va bene, ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Buona ciao. Giornata, ciao.